www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli i giovani skater rompono le balle agli abitanti più anziani, ma non è vero, noi siamo il futuro della società. Kappa e Drago riparlano di ucronia. Ucronia, Drago, ucronia. Signore Kappa, dai, una volta dicevi memetica, Drago, memetica. Poi sei passato a musicoterapia, Drago, musicoterapia. Adesso c'è questa ucronia. Devi scignottare. Eh sì, ucronia. Drago, ucronia. Che cosa sarebbe successo se Eva non avesse accettato la mela del serpente? E che ne so. Come che ne so? Saremmo tutti come bambole. Come tutti come delle bambole, cosa dici? Drago, senza sesso, come gli angeli, come le bambole. Ma sì, se Eva avesse... Certo. Un peccato originale è quello lì. Cioè il sesso? Eh sì. Scusa, non era la smania di conoscenza? Secondo te un serpente simboleggia la smania di conoscenza? No, vabbè, il serpente era il diavolo e la mela era la smania di conoscenza, no? Invece secondo me il serpente simboleggia la lussuria alla quale Eva cede senza pensarci su un attimo. Infatti da lì in avanti Adamo ed Eva cominciano a figliare. Prima del serpente stavano insieme come fratello e sorella. Quindi se Eva avesse detto di no al serpente, il mondo non si sarebbe popolato. Non sarebbe stato popolato dagli uomini, il che per il pianeta sarebbe stato meglio. Sì, sarebbe rimasto l'Eden. Pensa che bello, un mondo pieno di rinoceronti e giraffe, le galline, le formiche, dai, senza traccia di esseri umani, meraviglioso. Attento, Drago, l'Eden è bello, meraviglioso, ma i leoni non sanno che stanno nell'Eden. Vedo. Quindi loro ti mangiano esattamente come nella giungla. Vabbè, allora bell'Eden, Nell'Eden vige la regola. Quale regola? La regola della legge di natura. Ma che paradiso è se bisogna avere paura delle bestie feroci, dai. Ma in compenso non devi aver paura di accendere la TV a quest'ora e vedere Marzullo, quindi... Questo è vero, Consolati. E non c'è nemmeno l'incubo della multa per sosta vietata durante il turno di pulizia stradale. Vero. Al posto del logorio della vita moderna, qui nell'Eden c'è il logorio della vita primitiva. Olione! No, Kappa, ridammi pure la pulizia delle strade, la multa, Marzullo. No, anche Marzullo e anche una visita notturna della Guardia di Finanza. Ma chi è a quest'ora di notte? Pronto? Mi permettessero di salissero a Guardia di Finanza. Ma è così, Kappa, è che l'uomo moderno non ce la fa a vivere nell'Eden, non siamo abituati. Lo diceva anche il famoso filosofo e sociologo David Byrne negli anni Ottanta. Diceva, dove c'era il mio Pizza Hut preferito, adesso crescono le margherite. Sai, non era tanto contento mentre lo diceva. No, ma è come quelli che vanno a vivere in campagna o in montagna. Tempo 3 anni si scannano a vicenda nella loro casetta isolata, quella bella casetta che si sono scelti. Genitori con figli, mariti con mogli, nonne con nipoti. Sì, ma quelli che si scannano negli appartamenti in città, allora perché lo fanno? No, perché quelli sono quelli che volevano andare a stare in campagna, ma poi hanno cambiato idea. Tutti si scannano, è uno scannatoio. Attività omicida coordinata, attività motoria incontrollata, dalla coscienza, ma in sua presenza si manifesta durante il sonno. Ecco il killer sonnambulo, ti uccide senza dirtelo, e forse non sapendo. Perché è un killer ladro. La fabbrica di polli. Nel libro della Genesi, l'Eden ha una collocazione geografica precisa. Esso infatti era a oriente della Palestina ed era il punto di partenza di un fiume che poi creava il Tigri, l'Eufrate, il Pison e il Gihon. Eden in sumero significa giardino in pianura, parco. Quindi K, grosso modo, seguendo queste indicazioni, in Iraq c'era il paradiso terrestre. Vabbè, come adesso più o meno. Drago, stai giù! Stai giù! Mamma mia, da quando è finita la guerra in Iraq non c'è più un attimo di pace. Ma perché, ti sembra finita la guerra? La guerra è ufficialmente finita, stai giù! Ecco, sì. E adesso si tratta solo di ricostruire. Ma ricostruire dai, cosa? Ma solo no, che ci sono un po' di scaramucce. Ma come scaramucce? Ma sì, dai, un po' lo sapevamo che sarebbe finita così, insomma. Ah, un po' lo sapevate? Ma cosa vuol dire un po'? Cioè, sapevate chi? C'eri anche tu. Drago, lo sapevamo che c'era il timore che qualcosa non andasse, dai. Solo che ormai avevamo detto che si faceva. Era un peccato rimangiarsi le promesse fatte. Vabbè, sì. Dai. Soy George W. Bush y aprobé este mensaje. It is later than you think. Quattarec, ma sei proprio come Bush, eh? Hai sempre il lanciamissili in posizione di lancio? Il Douglas, lo so che purtroppo tu hai il morbo di Douglas, però io te l'ho già detto una volta. Michael Douglas, lui può episcopare tutte le donne che vuole. A te invece le galline non ti guardano nemmeno, eh? Cerca un po' di guarire allora, Il Douglas! Guarda che poi il Douglas è una maledizione, eh? Perché tu hai sempre bisogno episcopale, no? Anche se fai tanta attività episcopale, eh? E poi diventa un tormento senza fine, eh? Tarek, no, mi segui? E poi diventa come una droga, eh? Ti alzi la mattina che già quello fisso in testa. E poi se non ti controlli diventi uno stupratore, eh? Perché il passo è breve, lo stupratore. Se poi sei ricco e famoso e hai avvocati ebrei di Manhattan che seguono il caso, allora fai presto a uscire fuori pulito. Se invece sei un tre qualunque e salti addosso la prima che passa, allora ti prendi delle botte. Poi finisci in galera e chi si è visto si è visto. La fabbrica di polli. Nel paradiso islamico, dove ci sono tutte quelle vergini che aspettano il martire, la fregatura è che sono vergini e lo rimangono per sempre. Cioè, sono sempre le stesse per tutti e rimangono lì, vergini. Cioè, uno arriva lì in paradiso tutto tranquillo e pensa, ehi, adesso che festa, eh? E invece no. E invece... Hey, man, incredible fregatura. Siete soggi di stupidate pronunciate da parte della trasmissione Fabbrica di Polli in onda su Radio 3 da Rai. E va bene che Mullah Salahar in vacanza a Las Vegas a spendere milioni di dollari se non lanciava fatta così grande che si sentiva anche in Indonesia. E ora, la nostra programmazione continua con 2 ore di esercizio per mettere il nostro adesivo intorno esplosivo che sta intorno al corpo. Attenzione! Prima cosa che si deve sapere è che il nostro adesivo è adesivo solo di una parte. Che cosa succederà adesso? Kappa e Drago si stanno inimicando tutte le religioni monoteiste del pianeta? E se sì, a quando una disputa pubblica sulla Torah? Non perdetevi d'animo. Le risposte a questi e altri interrogativi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo paganizzante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.